ad alta voce. Alessandro Benvenuti legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Entrati nel castello, il signore fece condurre Agnese e Perpetua in una stanza del quartiere assegnato alle donne, che occupava tre lati del secondo cortile, nella parte posteriore dell'edificio, situata su un masso sporgente isolato a cavaliere a un precipizio. Gli uomini alloggiavano nei lati dell'altro cortile a destra e a sinistra e in quello che rispondeva sulla spianata. Il corpo di mezzo, che separava i due cortili e dava passaggio dall'uno all'altro per un vasto andito di rimpetto alla porta principale, era in parte occupato dalle provvisioni e in parte doveva servir di deposito per la roba che i rifugiati volessero mettere in salvo lassù. Nel quartiere degli uomini c'erano alcune camere destinate agli ecclesiastici che potessero capitare. L'innominato accompagnò in persona Don Abbondio, che fu il primo a prenderne il possesso. 23 o 24 giorni stettero i nostri fuggitivi nel castello, in mezzo a un movimento continuo, in una gran compagnia, e che nei primi tempi andò sempre crescendo, ma senza che accadesse nulla di straordinario. Non passò forse giorno che non si desse allarmi. Vengono lanzichennecchi di qua, si son veduti i cappelletti di là. A ogni avviso l'innominato mandava uomini a esplorare e, se faceva bisogno, prendeva con sé della gente che teneva sempre pronta a ciò e andava con essa fuori della valle, dalla parte dove era indicato il pericolo. Ed era cosa singolare vedere una schiera d'uomini armati da capo a piedi e schierati come una truppa condotti da un uomo senza armi. Le più volte non erano che foraggeri e saccheggiatori sbandati che se ne andavano prima d'essere sorpresi. Ma una volta, cacciando alcuni di costoro per insegnar loro a non venir più da quelle parti, l'innominato ricevette avviso che un paesetto vicino era invaso e messo a sacco. Erano lanzichennecchi di vari corpi che, rimasti indietro per rubare, s'erano riuniti e andavano a gettarsi all'improvviso sulle terre vicine a quelle dove alloggiava l'esercito. Spogliavano gli abitanti e gliene facevano di tutte le sorte. L'innominato fece un breve discorso ai suoi uomini e li condusse al paesetto. Arrivarono inaspettati. I ribaldi, che avevano creduto di non andar che alla preda, vedendosi venire addosso gente schierata e pronta a combattere, lasciarono il saccheggio a mezzo e se ne andarono in fretta, senza aspettarsi l'uno con l'altro, dalla parte donde erano venuti. L'innominato li inseguì per un pezzo di strada. Poi, fatto far alto, stette qualche tempo aspettando se vedesse qualche novità. E finalmente se ne ritornò. E ripassando nel paesetto salvato, non si potrebbe dire con quali applausi e benedizioni fosse accompagnato il drappello liberatore e il condottiero. Nel castello, tra quella moltitudine formata a caso di persone varie di condizione, di costumi, di sesso e d'età, non nacque mai alcun disordine d'importanza. L'innominato aveva messe guardie in diversi luoghi, le quali tutte invigilavano che non seguisse nessun inconveniente con quella premura che ognuno metteva nelle cose di cui sapesse a rendergli conto. Aveva poi pregati gli ecclesiastici e gli uomini più autorevoli che si trovavano tra i ricoverati d'andare in giro e di invigilare anche loro. E più spesso che poteva girava anche lui e si faceva vedere per tutto. Ma anche in sua assenza, il ricordarsi di chi s'era in casa serviva di freno a chi ne potesse aver bisogno. E del resto era tutta gente scappata e quindi inclinata in generale alla quiete. I pensieri della casa e della roba, per alcuni anche di congiunti o d'amici rimasti nel pericolo, le nuove che venivano di fuori, abbattendo gli animi, mantenevano e accrescevano sempre più quella disposizione. C'era però anche dei capi scarichi, degli uomini d'una tempra più salda e d'un coraggio più verde, che cercavano di passare quei giorni in allegria. Avevano abbandonate le loro case per non essere forti abbastanza da difenderle, ma non trovavano gusto a piangere e a sospirare su una cosa che non c'era rimedio, né a figurarsi e a contemplare con la fantasia il guasto che vedrebbero purtroppo coi loro occhi. Famiglie e amiche erano andate di conserva o se erano ritrovate lassù, si erano fatte amicizie nuove e la folla si era divisa in crocchi secondo gli umori e le abitudini. Chi aveva danari a discrezione andava a desinare giù nella valle, dove in quella circostanza si erano rizzate in fretta osterie. In alcune i bocconi erano alternati con sospiri e non era lecito parlar d'altro che di sciagure. In altre non si rammentavano le sciagure, se non per dire che non bisognava pensarci. A chi non poteva o non voleva farsi le spese, si distribuiva nel castello pane, minestra e vino, oltre alcune tavole che erano servite ogni giorno per quelli che il padrone vi aveva espressamente invitati, e i nostri erano di questo numero. Agnese e Perpetua, per non mangiare il pane a ufo, avevano voluto essere impiegate nei servizi che richiedeva una così grande ospitalità, e in questo spendevano una buona parte della giornata. Il resto, nel chiacchierare con certe amiche che s'erano fatte o col povero Don Abbondio. Questo non aveva nulla da fare, ma non s'annoiava però. La paura gli teneva compagnia. La paura proprio di un assalto, credo, che la gli fosse passata. O seppur gliene rimaneva, era quella che gli dava meno fastidio. Perché pensandoci appena appena doveva capire quanto poco fosse fondata. Ma l'immagine del paese circonvicino inondato da una parte e dall'altra, da soldatacci, le armi e gli armati che vedeva sempre in giro, un castello, quel castello, il pensiero di tante cose che poteva nascere ogni momento in tali circostanze, tutto gli teneva addosso uno spavento indistinto, generale, continuo, lasciando stare il rodio che gli dava il pensare alla sua povera casa. In tutto il tempo che stette in quell'asilo non se ne discostò mai quanto un tiro di schioppo, né mai mise piede sulla discesa. L'unica sua passeggiata era d'uscir sulla spianata ed andare quando da una parte e quando dall'altra del castello a guardar giù per le balze o per i burroni per istudiare se ci fosse qualche passo un po' praticabile, qualche po' di sentiero per dove andar cercando un nascondiglio in caso d'un serra-serra. A tutti i suoi compagni di rifugio faceva gran riverenze o gran saluti, ma bazzicava con pochissimi. La sua conversazione più frequente era con le due donne, come abbiamo detto. Con loro andava a fare i suoi sfoghi, a rischio che talvolta gli fosse dato sulla voce da Perpetua e che lo svergognasse anche Agnese. A tavola poi, dove stava poco e parlava pochissimo, sentiva le nuove del terribile passaggio, le quali arrivavano ogni giorno o di paese in paese e di bocca in bocca, o portate lassù da qualcheduno che da principio aveva voluto restarsene a casa e scappava in ultimo senza aver potuto salvar nulla o a un bisogno anche malconcio, e ogni giorno c'era qualche nuova storia di sciagura. Alcuni, novellisti di professione, raccoglievano diligentemente tutte le voci, abburattavano tutte le relazioni e ne davano poi il fiore agli altri. Si disputava quali fossero i reggimenti più indiavolati, se fosse peggio la fanteria o la cavalleria. Si ripetevano, il meglio che si poteva, certi nomi di condottieri. Da alcuni si raccontava le imprese passate, si specificavano le stazioni e le marce. Quel giorno il tale reggimento si spandeva nei tali paesi, domani anderebbe addosso ai tali altri, dove intanto il tal altro faceva il diavolo e peggio. Soprattutto si cercava d'avere informazione e si teneva il conto dei reggimenti che passavano di mano in mano il ponte di Lecco, perché quelli si potevano considerare come andati e fuori veramente del paese. Il giorno fissato per la partenza, l'innominato fece trovar pronta alla malanotte una carrozza nella quale aveva già fatto mettere un corredo di biancheria per Agnese, e tiratala in disparte le fece anche accettare un gruppetto di scudi per riparare al guasto che troverebbe in casa, quantunque, battendo la mano sul petto, essa andasse ripetendo che ne aveva lì ancora dei vecchi. Quando vedrete quella vostra buona povera Lucia, le disse in ultimo, già son certo che prega per me, poiché le ho fatto tanto male. Ditele adunque che io la ringrazio e confido in Dio che la sua preghiera tornerà anche in tanta benedizione per lei. Volle poi accompagnar tutte e tre gli ospiti fino alla carrozza. I ringraziamenti umili e sviscerati di Don Abbondio e i complimenti di Perpetua, se li immagini il lettore, partirono. Fecero, secondo il fissato, una fermatina, ma senza neppur mettersi a sedere, nella casa del sarto, dove sentirono raccontar 100 cose del passaggio, la solita storia di ruberie, di percosse, di sperpero, di sporcizie. Ma lì, per buona sorte, non s'eran visti l'anzicannecchi. «Ah, signor curato», disse il sarto, dandogli di braccio a rimontare in carrozza, «s'ha da far dei libri in istampa sopra un fracasso di questa sorte». Dopo un'altra po' di strada, cominciarono i nostri viaggiatori a vedere con loro occhi qualche cosa di quello che avevano tanto sentito descrivere. Vigne spogliate, non come dalla vendemmia, ma come dalla grandine, dalla bufera, che fossero venuti in compagnia, tralci a terra, sfrondati e scompigliati, strappati pali, calpestati il terreno, e sparso di schegge, di foglie, di sterpi, schiantati, scapezzati gli alberi, sforacchiate le siepi, i cancelli portati via. Nei paesi poi, usci sfondati, impannate lacere, paglia, cenci, rottami d'ogni sorte, ammucchi o seminati per le strade, un'aria pesante, zaffate di puzzo più forte che uscivano dalle case. La gente, chi a buttar fuori porcherie, chi a raccomodare le imposte alla meglio, chi in crocchio a lamentarsi insieme, e al passar della carrozza mani di qua e di là tesi agli sportelli per chiederle l'elemosina. Con queste immagini ora davanti agli occhi, ora nella mente, e con l'aspettativa di trovare altrettanto a casa loro, ci arrivarono e trovarono infatti quello che s'aspettavano. Agnese fece posare i fagotti in un canto del cortiletto, che era rimasto il luogo più pulito della casa. Si mise poi a spazzarla, a raccogliere e a rigovernare quella poca roba che gli avevano lasciata. Fece venire un legnaiuolo e un fabbro per riparare i guasti più grossi, e guardando poi capo per capo la biancheria regalata e contando quei nuovi ruspi, diceva tra sé: son caduta in piedi, sia ringraziati Dio e la Madonna e quel buon Signore, posso proprio dire d'esser caduta in piedi. Don Abbondio e Perpetua entrano in casa senza aiuto di chiavi. Ogni passo che fanno nell'andito sentono crescere un tanfo, un veleno, una peste che li respinge indietro. Con la mano al naso vanno all'uscio di cucina, entrano in punta di piedi, studiando dove metterli per scansar più che possono la porcheria che copre il pavimento, e danno un'occhiata in giro. Non c'era nulla d'intero, ma avanzi e frammenti di quel che c'era stato lì e altrove. Se ne vedeva in ogni canto piume e penne delle galline di Perpetua, pezzi di biancheria, fogli dei calendari di Don Abbondio, cocci di pentole e di piatti, tutto insieme sparpagliato. Solo nel focolare si potevano vedere i segni d'un vasto saccheggio accozzati insieme come molte idee sottintese in un periodo steso da un uomo di garbo. C'era, dico, un rimasuglio di tizi e tizzoni spenti, i quali mostravano d'essere stati un bracciolo di sedia, un piede di tavola, uno sportello d'armadio, una panca di letto, una doga della botticina dove ci stava il vino che rimetteva lo stomaco a Don Abbondio. Il resto era cenere e carboni. E con quei carboni stessi, i guastatori, per ristoro, avevano scarabocchiati i muri di figuracce, ingegnandosi con certe berrettine o con certe cheriche e con certe larghe facciole di farne dei preti, e mettendo studio a farli orribili e ridicoli, intento che, per verità, non poteva andar fallito a tali artisti. «Ah, porci!» esclamò Perpetua. «Ah, baroni!» esclamò Don Abbondio. E, come scappando, andarono fuori per un altruscio che metteva nell'orto. Respirarono. Andarono diviato al fico. Ma già prima d'arrivarci videro la terra smossa e misero un grido tutte e due insieme. Arrivati, trovarono effettivamente, invece del morto, la buca aperta. «Qui?» Nacquero dei guai. Don Abbondio cominciò a prendersela con Perpetua, che non avesse nascosto bene. Pensate se questa rimase zitta dopo che ebbero ben gridato, tutte e due col braccio teso e con l'indice appuntato verso la buca, se ne tornarono insieme brontolando. E fate conto che per tutto trovarono a un di presso la medesima cosa. Penarono non so quanto a far ripulire, a smorbare la casa, tanto più che in quei giorni era difficile trovare aiuto, e non so quanto dovettero stare come accampati, accomodandosi alla meglio o alla peggio e rifacendo a poco usci, mobili, utensili, con danari prestati da Agnese. Per giunta poi quel disastro fu una semenza ad altre questioni molto noiose, perché Perpetua, a forza di chiedere, domandare, di spiare e fiutare, venne a sapere di certo che alcune masserizie del suo padrone, credute preda o strazio dei soldati, erano invece sane e salve in casa di gente del paese, e tempestava il padrone che si facesse sentire e richiedesse il suo. Tasto più odioso non si poteva toccare per Don Abbondio, già che la sua roba era in mano di birboni, cioè di quella specie di persone con cui gli premeva più di stare in pace. «Ma se non ne voglio sapere nulla di queste cose», diceva, «quante volte ve lo devo ripetere, che quel che è andato, o da esser messo in croce perché m'è stata spogliata la casa?» «Se lo dico», rispondeva Perpetua, «che lei si lascerebbe cavar gli occhi di testa. Rubare agli altri è peccato, ma a lei è peccato non rubare». «Ma vedete se codesti sono spropositi da dirsi», replicava Don Abbondio. «Ma volete stare zitta?» Perpetua si chetava, ma non subito, e prendeva pretesto da tutto per riprincipiare, tanto che il povero uomo s'era ridotto a non lamentarsi più quando trovava mancante qualche cosa nel momento che ne avrebbe avuto bisogno, perché più di una volta gli era toccato a sentirsi dire «vada a chiederlo al tale che è là», e non l'avrebbe tenuto fino a quest'ora se non avesse a che fare con un buon uomo. Un'altra e più viva inquietudine gli dava il sentire che giornalmente continuavano a passare soldati alla spicciolata, come aveva troppo bene congetturato, onde stava sempre in sospetto di vedersene capitare qualcheduno o anche una compagnia sull'uscio che aveva fatto raccomodare in fretta per la prima cosa e che teneva chiuso con gran cura. Ma, per grazia del cielo, ciò non avvenne mai. Né però questi terrori erano ancora cessati che un nuovo ne sopraggiunse. Ma qui lasceremo da parte il povero uomo. Si tratta ben d'altro che di sue apprensioni private, che dei guai da alcuni paesi, che d'un disastro passeggero. Alessandro Benvenuti ha letto I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni.